Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Azione. Punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione. Punto. Radiazione 20 giugno 2014, oggi venerdì e quindi diretta d'azione con solo controinformazione, qualche riflessione, anzi molte riflessioni, visto che ne ho appena messe alcune sul sito di Radiazione, e musica ovviamente per intervallare, per dare, prendere io un po' di ossigeno, una boccata d'ossigeno, accendermi una sigaretta e tutto. Diretta d'azione che alle 18.10 in circa vedrà l'ennesima sua caduta di grande fiume. Noi non lo sappiamo, se un meccanismo è automatico allora accadrà, se non è un meccanismo automatico speriamo che loro si stanno guardando la partita di calcio dei mondiali. Quindi speriamo in tutto ciò, speriamo che non cade la connessione, anche perché già la diretta d'azione non durerà due ore, o forse, boh, ora vediamo, vediamo fino a quando si riuscirà ad andare avanti. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione, radiazione@autistici.org, per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, materiale da far pubblicare sul sito di Radiazione, notizie di controinformazione, oppure materiale da farci da far scaricare attraverso la pagina di download. Ultimamente ci è arrivato un disco da un compagno, l'abbiamo messo nei download, quindi chi vuole può andarselo a scaricare, il CD è porco nero, le tematiche sono affini. Non è l'unica cosa che ci ha mandato il compagno dal Messico, il compagno napoletano che però sta in Messico, ma ci ha mandato anche le interviste alla Croce Nera Anarchica Messicana che abbiamo mandato ora in prediretta e che comunque potete riascoltare o attraverso la pagina dei download o attraverso la homepage di Radiazione. Trovate l'articolo, intervista alla Croce Nera Anarchica Messicana, ci sono le tre parti e ve le ascoltate se ci avete voglia, ovviamente è interessante, quindi io ve le consiglio. Il blog, il sito di Radiazione invece è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione sia attraverso i podcast o la diretta, quella in diretta, attraverso il lettore Flash Player che trovate in sidebar, attraverso l'articolo, il post che annuncia la diretta del giorno. C'è un banner, ci cliccate sopra, è facile, è facile. Ci riesco io, ci può riuscire chiunque. Allora, come abbiamo detto oggi, solo controinformazione, riflessione e musica. Per l'appuntamento con le letture è il lunedì, la solita ora alle ore 17. Lo ricordo che in prediretta manderemo sempre la diretta del lunedì precedente, così chi si è perso la parte del racconto, la parte della lettura del lunedì precedente, se la può riascoltare sempre se ne ha voglia, sempre se tutto ne avete voglia. Allora, altrimenti vi appendete, vi ascoltate quella, se il libro già lo conoscete, vabbè, fate voi, non vi devo dire nulla. La radio trasmette su analia.net, il server messo a disposizione a comando di The Anarchist Library, che salutiamo sempre, che ci ha risolto un bel po' di rogne per quanto riguarda la connessione server, per quanto riguarda il sito, insomma ci ha dato una bellissima mano e quindi lo salutiamo sempre. Radiazione invece in lingua croata lo trovate, ci potete accedere sempre tramite il sito di Radiazione. Cliccate, c'è un banner proprio sopra il lettore Flash Player, c'è il banner piccolo di Radiazione Croazia, ci cliccate sopra e vi potete leggere anche la controinformazione in lingua croata per chi la conosce. Per chi non la conosce può essere un modo per imparare il croato, anche se è molto difficile. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro su Swamp Terrorist, il brano è Right Here, e poi dopo si torna qui e si inizia con la controinformazione. Swarm Terrorist Right Here. Questo era il brano che introduce giusto ora e giusto qui la prima notizia di controinformazione, che non è proprio una notizia ma è una lettera. Abbiamo detto che nella prediretta abbiamo mandato l'intervista fatta in tre parti, divisa in tre parti, alla Croce Nera Anarchica Messicana. Ora leggiamo un testo che arriva dal Messico, il testo del compagno Mario Lopez Chivo, testo che si intitola Sognare ad occhi aperti. Allora, leggiamo il testo. Oggi, mentre attendevo di passare la lista al mio carceriere, mi sono goduto una tavoletta di cioccolato fondente. Mentre il burattino custode completava la sua routine, io chiusi gli occhi e iniziai a sognare ad occhi aperti. Sono andato oltre questa realtà per un attimo ed ho immaginato di essere libero e leggero, forte e determinato, con il petto pieno d'amore e desiderio di un nuovo mondo organizzato diversamente, funzionale a tutti senza differenze di genere o dell'area geografica, dove ci è toccato nascere e dove una barriera di cemento o filo non interferisce con la fratellanza umana, né limiti di spostarsi liberamente da un luogo ad un altro a tutti gli individui. Un mondo di persone autonome e libere da se stesse, orizzontale, che non si relazionano in modo competitivo in base ai principi fondamentali del mutuo sostegno e di solidarietà. Immagino un luogo dove un sorriso vale più di una fottuta opportunità di progresso, progresso dei pochi e l'evoluzione dei molti, dove tutti gli individui saranno in grado di prendere il controllo della propria vita e quindi avranno la capacità di organizzarsi tra uguali per formare legami sociali senza strutture di potere. Immagino un mondo dove posso camminare tenendo per mano la mia piccola figlia senza che vengo rubato dalla polizia né violentato come risultato di un programma di pace sociale voluto da un politicante di partito. Aprì gli occhi, un po' nauseato dalla cioccolata, e sentì la voce del carceriere che mi chiamava per avere la lista, e così tornai alla realtà, in questo schifoso apparato di esclusione e di isolamento chiamato carcere. E allora ho pensato che per avere la possibilità di fare questa bella utopia, in realtà non basta desiderarla, pensarla e scriverla, ma agire subito, qui ed ora, a cominciare da me e non aspettando il momento giusto, iniziando la distruzione, con molto affetto per i compagni della CNA in Messico, per i suoi 10 anni di lotta, viva l'anarchia, Mario Lopez Chivo. E questo era il primo testo molto più particolare rispetto a quelli sempre un pochino troppo pesanti che ci arrivano dal carcere, ovvio, cioè non ci lamentiamo per questo, non ci lamentiamo, però ogni tanto leggere un testo anche un pochino più leggero che comunque fa un'analisi e fa delle riflessioni è pure molto bello, molto più distensivo. Non sono diventato un fricchettone, lo dico, non andrò a fare yoga, però comunque a me piacciono anche certi tipi di scritti come quello di Mario Lopez Chivo. E allora questo era il primo testo che abbiamo letto in questa diretta del 20 giugno 2014. Ora, per fare un omaggio a chi mi ha omaggiato del CD, mando un brano preso dal CD di Porco Nero, PKT, che si intitola Me cago e nel controllo. Ci ha toccato un mondo di merda, ogni modo stiamo cercando il modo per uscire dal gioco in cui ci hanno incastrati. Si conta balle ignobili, controllo, repressione a dei livelli inimmaginabili. Ara Orwell Way, fantapolitica, nuovo millennio in cui ormai regna l'informatica, elettronica, mandanza, satelliti in orbita. La guerra digitale è già reale fra camarade seguri da como tentaculo. Se a me ne paresse un stupido spettacolo, una farsa, una realità vasia fondata sull'estetica, su medita, madre mia che fracica. Ya llegó il momento de revantarne, attaccar todo esto es abuso, no se puede insoportar. Se passaron della raya y aserrato, y ahora les toca pelear, usted de rata contra gatos. tappala, tagliala, la videocamera, ya tumbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destruyela, tápale los ojos, no te dejes espiar, tápala, tagliala, la videocamera, ya tumbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destruyela, tápale los ojos, no te dejes espiar, una cámara aquí y otra por allá, por más que tú quieras, nunca te librarás del ojo que está en medio de un triángulo, del ojo que está en la esquina, mirando a todos lados, siguiéndote, acostándote, mirándote fijamente. Nada queda en secreto, la amenaza está latente, sintiéndote parte de una masa inmóvil. Los más media han actuado, de ti nada ha quedado. Tu opinión se va a la mierda, reducida a un like. Y la lucha en las calles por su esencia brillará. Las redes sociales son redes de dominación, todos son la misma mierda y crean la distracción de lo que verdad importa, de las reales discusiones. Siempre estás una máquina sin entender razones, jalados completamente, así es que quieren vernos podridos de la mente, vigilados estrictamente. Impronte digitali, controllo della retina, una carta di credito, una ricetta medica, un lavoro regolare, pagare una cambiale, la mia routine dalla nascita sta il funerale, cruzo una frontera, passa un aeroporto, io un pince polizia che te checca il passaporto, parlando di libertà, ma è la libertà di morto, io non mi conformo ma non creato storto. Domesticados, regulados, saben en donde estamos, participando en la marcha, ellos les queda claro, ya saben en dónde estás, también en dónde vives, solo es cuestión de tiempo hasta que tú te decides actuar en contra de ellos y romper el engranaje de la manera que tú quieras, que empiece el sabotaje, destrúyeles, quémales, nunca les sacas caso, libres y salvajes nunca nos han dominado. Tápala, cállala, la videocámara, ya túmbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destrúyela, tápale los ojos, no te dejes espiar, tápala, tállala, la videocámara, ya túmbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destrúyela, tápale los ojos, no te dejes espiar, no te dejes espiar, no te dejes espiar, ya no te dejes espiar, ya no te dejes espiar. E questo era PKT, ovvero Porco Nero, con il brano Me Cago e nel Controllo. Lo ricordo che a chi piace il genere, a chi vuole scaricare il CD, lo trova come ultimo download, come ultimo come tempi, però è il primo che trovate nella pagina di download. Porco Nero, UTIM di Peggio, il compagno è napoletano. E sta in Messico ed è quello che penso abbia anche lui tradotto gli audio della Croce Nera Anarchica, l'intervista alla Croce Nera Anarchica. Allora, questo era per quanto riguarda il brano che seguiva il testo di Mario Lopez Civo. Ora ci facciamo la bocca un pochino più bella, ci addolciamo la bocca con un'azione, ovviamente, come ce la possiamo aggiustare se non con l'azione. Allora si va a Berlino in Germania, dove è stata attaccata un'auto della Bosch Security System. Leggiamo il testo rivendicativo: ordigno incendiario per la Bosch Security System a Stockover Street, vicino ad una stazione di polizia, in solidarietà con la rivolta contro la Coppa del Mondo, che noi speriamo oggi gli bastardi sbirri italiani la seguono alle 6, così evitiamo di cadere con la connessione alle 6:10. La Bosch Security System effettua piani di sicurezza per le stazioni ferroviarie e aeroporti, per le banche e le autorità amministrative. Sicurezza per le persone che fanno delle nostre vite un inferno dai loro uffici. Sicurezza per le banche che causano la sofferenza in tutto il mondo, come la Santander e la Deutsche Bank. La sicurezza per il flusso del capitale, in modo che nessun sabotatore potrà tentare di interrompere brevemente questa normalità mortale. Bosch è stata responsabile per la ristrutturazione della metropolitana di São Paulo, in Brasile. Lì come qui la violenza è ritenuta in costante aumento e per questo motivo la sicurezza doveva essere ripristinata. La soluzione è abbastanza semplice. Quasi 200 telecamere di sorveglianza sono state installate in tutta la linea della metropolitana. Queste sono costantemente monitorate da un centro di controllo. ancora una volta un sistema di metropolitana è sicuro e tutti sono soddisfatti, il Ministero della Giustizia, la Polizia, i media, la ditta Bosch e la sua banda di scagnozzi. Domande su come e perché la violenza continua ad aumentare, se le telecamere scoraggiano o ritardano l'azione e chi ultimamente può permettersi costo generale per coprire tutta la rete metropolitana, vale a dire per chi è stata costruita la sicurezza lì, probabilmente avranno risposte solo in futuro. Scosso e guidato dalla dinamica della crisi, lo Stato non può fornire gli strati inferiori con qualsiasi integrazione, invece impone varie forme di repressione e di sorveglianza su di loro, ha scritto il Die Flinken, quegli agili che hanno attaccato un punto di assistenza Canon in comunque a Berlino, tanto per farci capire, la notte del 21 marzo 2014, in particolare sull'argomento delle telecamere. Quello che sta accadendo proprio ora, prima della Coppa del Mondo in Brasile, dimostra chiaramente questo. Siamo qui in solidarietà esplicita con tutti coloro che non hanno interesse per una Coppa del Mondo, ma che hanno sempre avuto o scoperto recentemente di avere un interesse per la rivolta. Vorremmo salutare i compagni di Berlino e l'IPCA che hanno creato l'inferno alle diverse imprese di vigilanza ultimamente. Ci piacerebbe anche salutare i nostri sconosciuti compagni di Neukölln a Berlino, sempre Berlino, questi nomi lunghissimi e difficilissimi da pronunciare, che hanno cercato di far saltare in aria l'auto della polizia in Rolberg Street. Per gli sbirri in via Stockover non vi vediamo. A quanto pare voi non vedete noi. Noi vi vediamo e loro non vedono loro. Abbiamo ancora molto da fare, gruppo informale. Sto leggendo manco una merda perché fa caldo, c'ho la gola appiccicata già. Già c'ho le labbra appiccicose. Quindi non è una scusa, non è una scusa, già leggo una merda, però se ci si mette pure caldo, buonanotte. Allora, questa era per l'azione rivendicata e fatta in Germania, a Berlino. Ricordo che se andate sulla ricerca del sito di radiazione potete notare che la Bosch, come qualche altra agenzia di vigilanza, ultimamente è stata presa molto sotto tiro da alcuni compagni, in particolar modo da questo gruppo informale di cui abbiamo già letto qualche rivendicazione proprio poco tempo fa, qualche settimana fa sarebbe. Ora ci ascoltiamo un brano degli Atari Teenage Riot, il brano è Reset, ovviamente dopo l'azione è Reset, e poi dopo si torna qui e si inizia la puntata numero 14 della soppopera La Fenice. E allora vai che vanno a vedersi la partita gli stronzetti. 1:17:30 è caduta la connessione. We'll be right back. E poi dicono: perché fanno le barzellette sui carabinieri? Ecco spiegato, i coglioni arrivati. Ovviamente poi può essere la polizia, ma non cambia, perché avevamo previsto che la connessione sarebbe caduta prima dell'orario della partita. Alle 18 c'è la partita, si devono guardare la partita, e quindi la connessione è stata fatta cadere in precedenza. Almeno pensiamo così, però si è avverato quello che era un dubbio, si è avverato, quindi ce la siamo anche chiamata, perché abbiamo mandato un brano degli Atari Teenage Riot da titolo Reset. Loro ci hanno resettato e noi abbiamo riavviato, quindi tutto ok, tutto normale sotto il caldo infernale di giugno. Sotto il caldo infernale di giugno e sotto il caldo loro della Fenice numero 14, bruciati ripetitori telefonici a Bristol, UK. Allora leggiamo il testo del Lughino, quindi come al solito lo spezzetteremo in due parti con un brano che ci faccia respirare un pochino. Allora leggiamo il testo rivendicativo. In tutto a Bristol tra il 9 e 10 giugno abbiamo lasciato 7 ripetitori telefonici in fiamme. Il proseguimento quotidiano della società capitalista dipende dal flusso ininterrotto di beni, persone, dati e energie, e la rete di comunicazione non fa eccezione. Il limitato uso di questi flussi della gran parte di noi maschera solo il modo in cui essi vengono usati, principalmente per garantire e imporre l'ordine dominante e aumentarne il controllo e la portata. Dovete solo guardare per capire il valore della connettività, della velocità e della mobilità che sono racchiuse in un telefono cellulare, ad esempio, e facilitano una spietata cultura di consumismo e portano ad essere disponibili o flessibili in ogni momento. Come per i benefici dei padroni e la pubblicità per la vostra famiglia o amici. Questa è pienamente coerente con la ristrutturazione moderna e la decentralizzazione del gigante sistema di produzione al quale questa società ci obbliga. Il nostro obiettivo è stato colpire tutto ciò. Due ripetitori sono stati colpiti contemporaneamente ad Ambrook e fuori dal parco commerciale Remil. A Culpit, entrambi posseduti da O2. Non è la prima volta che O2 subisce danni a causa degli appalti della gestione di detenzioni dei migranti con la polizia e per il sistema di affidamento per la libertà vigilata. Qualche ora dopo, il terzo ripetitore O2, noi lo chiameremo O2. Poi O0 è uguale, è andato giù a Combi Dingle mentre veniva appiccato il fuoco dopo essere entrati nell'unità di comunicazione che collega alla grande torre di telecomunicazione BT a Lucklis. I segnali che hanno ricevuto un traccio sono stato O2, T-Mobile, Orange e Vodafone. Queste aziende a vario titolo sono connesse al settore delle forniture militari, usano il lavoro in carcere e sono famose per collaborare prontamente al controllo elettronico fatto da servizi segreti, ora che la sorveglianza digitale diffusa è ben nota. Mentre non smettono di finanziare l'Università di Oxford con i suoi grandi laboratori di sperimentazione animale. Questo li ha portati ad essere attaccati a Berlino, compagnia associata a T-Mobile, a Parigi Orange e a Bembury, Vodafone. Per tutti i suddetti motivi è sempre bene attaccare queste aziende strutturalmente ed economicamente. E c'è anche la questione di quanto questi ripetitori emettono radiazioni chissà quanto pericolose per le specie vicine. C'è stato il noto caso a Bristol qualche anno fa di una donna che a Shirehampton lamentò i danni di un ripetitore posto su un grande condominio e poi morì di tumore al cervello, mentre un ripetitore soprannominato la Torre della Condanna venne ritirato a Staple Hill dopo l'aumento dei casi di cancro. Ci sono prove del fatto che il prolungato uso di telefoni cellulari porta danni al sistema immunitario, diminuisce la fertilità a causa di tumori al cervello e cancri, soprattutto nei giovani. dobbiamo dire che il rivenditore bruciato a Combi Dangle è uno dei tre posizionati in un campo sportivo universitario dove ci sono anche scuole, così come molti altri. Inoltre, disturbati tecnici di laboratorio hanno dedotto della sperimentazione su altri mammiferi torturati durante la ricerca scientifica che l'esplosione durante la gravidanza danneggia molto il sistema nervoso, la struttura e il comportamento vengono influenzati da tale esposizione e possono contribuire a problemi di comportamento nei bambini. Questi prodotti sono stati e vengono ancora presentati come innocui, sebbene quasi ogni studio dica che questo è stato detto dalle aziende stesse, non abbiamo idea degli effetti a lungo termine, così come per il fumo e l'amianto, prima di saperne le nocività letali, giusto per usare due esempi noti tra migliaia. In questi giorni anche i ricercatori dell'Università di Bristol hanno ammesso i danni provocati dall'uso del cellulare. Che sorpresa! Tutto l'ambiente perennemente connesso si rivela tossico, mentre le compagnie traggono profitto e il governo riceve miliardi di tasse e licenze. Per la maggioranza della gente, l'uso prolungato con i cellulari o reti senza fili in generale sembra inevitabile, per lavoro o per evitare l'isolamento sociale, in strada, sui mezzi pubblici e a casa. Stiamo affondando in un flusso sempre più velenoso, antiumano e civilizzatore, antivita che cresce giorno per giorno. E questa era la prima parte del testo della Fenice numero 14, in cui i compagni che hanno portato questo attacco fanno alcune riflessioni, non dicono niente di nuovo di quello che già si sapesse. Senta che molto preoccupare la fertilità ai compagni, speriamo che nessuno faccia più figli, così non ci prenderemo più la responsabilità di mettere a mondo altre persone che dovranno subire quello che noi stiamo subendo ora. A parte questo, comunque, ovvio, conosciamo i problemi anche a Napoli, ricordo qualche anno fa la gente è incazzata, è salita sul tetto, ha tirato giù dal quarto piano un ripetitore dopo che era morta una bambina per cancro dovuto al ripetitore stesso. C'è stato un periodo anche qui a Napoli in cui ogni tanto cadeva qualche ripetitore giù da qualche palazzo, poi sembra essere tutto tornato normale dopo la messa a disposizione di droghe come Facebook, i social network in generale, che tengono attaccati le persone là nelle proprie case davanti al computer a vivere questa sorta di vita virtuale e dimenticarsi che proprio sulla loro testa potrebbe esserci la causa di un cancro. Quindi vabbè, questa era la prima parte di riflessione dei compagni e poi ho aggiunto io qualcosa di mio. Ora ci ascoltiamo un brano per spezzettare e per farmi una sorsata d'acqua. Loro sono Ace Breaker, il brano è Adrenaline e poi dopo si ritorna qui con la seconda parte della Fenice numero 14. So Icebreaker, il brano era Adrenaline. Ora continuiamo con la lettura del progetto Fenice numero 14. Lo ricordo, abbiamo letto la prima parte per chi sa iniziato ad ascoltare da poco la diretta d'azione. Si tratta dell'attacco numero 14 a firma Progetto Fenice, avvenuto a Bristol, dove sono stati attaccati dei ripetitori. Continuiamo con il testo dei compagni inglesi. Una caratteristica ricorrente dello straniamento, che non ho capito ancora cos'è, quello chiederò a chi ha tradotto, che le tecnologie come i telefoni cellulari generano oggi tra individui, sta nel fatto che molti sono dipendenti dall'uso costante di mandare messaggi o tweet per evitare la prospettiva di un vero contatto e di come si sentono sicuri solo comunicando tramite un dispositivo. Adesso è normale per la gente passare la maggior parte delle giornate a interfacciarsi ad uno schermo o ad un altro. Invenzioni come Google Glass cercano di rendere questa funzione quasi totale, sebbene dipendente in gran parte dalle infrastrutture di trasmissione continua. In una società che vive tramite tecnologie molto complesse, noi non viviamo più pienamente nei nostri corpi e nell'ambiente, ma piuttosto siamo parte di una tecno-alveare. E non si tratta più solo di nerd o di giovani che praticamente considerano questa realtà virtuale come loro casa. Mentre la sfera dominata dall'informazione tecnologica si espande, ciò che è considerato socialmente importante nelle nostre vite attuali si adatta a ciò che può essere trasmesso dal dispositivo, così come complicate emozioni umane ed esperienze. O pensiamo al bisogno ossessivo di trattare la vita moderna come qualcosa che va vissuta meno rispetto al documentarla in ogni dettaglio per un passivo consumo sui social network, come un altro esempio di colonizzazione del capitalismo e della sua tecnologia. Pianificare e realizzare la tua vita digitalmente permette anche la possibilità di una sorveglianza senza precedenti, e ciò colpisce la ribellione attiva, ma anche mettere in discussione l'ordine dominante tramite la segnalazione di anomalie in ciò che di solito volontariamente condividi con i tuoi amici o nemici, non lo so, o amici. Allo stesso tempo, lo sfruttamento sistematico di varie popolazioni nel mondo e il saccheggio ecologico vicino al collasso continuano a riempire le tasche dei ricchi parassiti, e l'immersione tecnologica aiuta la gente a non interessarsene. Al contrario, milioni aspirano a prendere parte a questo stile di vita che sta uccidendo tutti. Con una prospettiva anarchica in cerca di libertà e piena esistenza, combattiamo per porre fine a tutte le tecnologie nate dall'intossicamento e dallo sfruttamento delle miniere, fabbriche, infrastrutture industriali e per la nostra quotidiana comunicazione, per quanto possibile non mediata. Abbattere questi pochi nodi non è abbastanza per noi. Non si tratta di abbandonare semplicemente l'uso di un particolare dispositivo, ma azzerare l'intero sistema sociale che prima ci ha intrappolati nella sua necessità e la sfida. Abbiamo ritenuto i ripetitori un modo facile per iniziare. Si tratta solo di lasciare pneumatici in fiamme tra i cavi scoperti e andarsene. Nel nord di Lanarkshire, degli abitanti scozzesi ne hanno anche tirato giù uno, riflettendo sulla storia radicale e anti-industriale in Gran Bretagna, come le insurrezioni Swing e Luddist, così come l'attuale pratica della guerriglia anarchica, possiamo vedere il vantaggio della tecnologia ridotta, economica e con tattiche facilmente riproducibili per danneggiare il macchinario che ci limita e ci impoverisce in un livello intimo maggiore rispetto a prima. Queste strutture ubique e molto costose sono ovunque nei nostri paesi e nelle nostre città, e stanno anche arrivando nelle campagne, dove spesso sono dipinte di verde nel tentativo di camuffarle, e anche uccelli e pipistrelli fanno i nidi su di essi. I loro guardiani non possono sorvegliarle sempre tutte, quindi sta a noi restare un passo avanti e colpire. Questa ed ogni rete ha i suoi punti deboli. In queste falle nell'architettura del controllo dobbiamo trarne vantaggio. una capacità distruttiva che stiamo approntando, finché le promesse della moderna cultura ipertecnologica continueranno a mostrare la loro superficialità, ce l'ho fatta a dirla, i ribelli attaccheranno le nocive installazioni e lo stile di vita che alimentano. La resistenza della macchina tecnologica industriale vive soltanto in un percorso di liberazione da ogni autorità e ordine. Corre verso un orizzonte degli eventi, un nulla non script. Lettera di Gianluca Iacovacci da carcere di San Michele. Il nostro attacco non è separato dall'intera sovversione anarchica con ogni mezzo, che naturalmente include la solidarietà con i nostri prigionieri nelle mani del nemico. Un saluto selvaggio da Bristol ad Adriano Antonacci e non meno al suo amico e compagno Gianluca della FAI FRI Individualità Sovversiva e Anticivilizzazione, a processo per le sue coraggiose azioni a Roma. Un saluto anche ai nuovi gruppi anarchici e anticolonialisti ad Hong Kong e Australia e solidarietà ai 10 a Parigi accusato di aver sabotato chi trae profitto dalle prigioni. Il nostro attacco arriva per tempo, mentre tutto è pronto per essere sommerso dall'isteria della Coppa del Mondo, e mostra la nostra complicità ai combattenti insorti in Brasile, che rispondono all'esproprio massiccio e militarizzato degli Islam per l'opulenza della competizione con scontri di strada e incendi. Perché va ricordato che lo spettacolo accattivante che serve a dare profitto ai ricchi e distrarci dalle nostre umiliazioni quotidiane è basato sulla violenza dello Stato e del capitale, a danno dei resistenti, indigeni e più poveri della società brasiliana. Non dimentichiamo Mary Mason ed Eric McDavid, entrambi sono dietro le sbarre dopo la repressione di Stato e l'arresto in seguito ad una scia di azione del Fronte di Liberazione della Terra negli Stati Uniti. Anni dopo, la lotta per la liberazione della Terra non è stata sconfitta sia nello spirito che nella pratica. La lotta continua con fabbriche di pellicce attaccate e svuotate nel Nord America, con i nostri fratelli e sorelle incendiari che lottano le assediate foreste in Turchia, nelle strade della città del Costa Rica o negli sviluppi tecno-industriali in Svizzera. Ultima nota, ricordiamo le continue minacce legali agli anarchici Silvia, Costa e Billy e anche l'ultimo trattamento punitivo a Marco Kamenich in merito al suo trasferimento carcerario, cose che non possono passano inosservate agli incendiari internazionali. Basta con la società basata sul dominio della terra e di tutte le sue creature. Likewise, FAI LF. E questo era il testo, finiva il testo con Live Wires, sarebbe la firma Federazione Anarchica Informale Fronte di Liberazione della Terra, la firma del progetto numero 14 della Fenice, che dopo ne parleremo molto più nello specifico quando si parlerà delle riflessioni fatte dal sottoscritto e pubblicate appena stamattina. I compagni inglesi citavano tra i tanti il trattamento punitivo a Marco Kamenich merito al suo trasferimento carcerario. Allora, da una fonte sicurissima, ultra sicura, posso dire molto tranquillamente che Marco sta bene, è contento che dalla sua nuova cella riesce a vedere un bosco. Non riusciva a vedere un bosco da non so quanti anni. Nell'altro carcere vedeva solo cemento, ora dalla finestra della cella riesce a vedere il bosco e quindi è molto contento per questo, sta bene, va avanti, è forte, è Marco Kamenich. Ora ci ascoltiamo un brano di chi? Noisy Unite con il brano Firing Line e poi dopo si torna qui e con altre notizie di controinformazione prima di passare alle riflessioni che poi saranno scazzi ulteriori con qualcuno. Initiate in 5 seconds. Thank you. E questi erano Nozzy Unite con il brano Fireline. Intanto la compagna di radiazione in lingua croata ci fa sapere che O2, quindi è come l'ossigeno, dice. L'altra cosa, l'altra correzione, l'altra cosa che non avevo capito, è inutile che ve la dico perché non capireste una mazza ora dopo un testo di 4 pagine. Allora, siccome siamo in un orario un pochino del cazzo, nel senso che la partita di quella merda della nazionale italiana è iniziata, quindi chi rompe i coglioni dovrebbe stare davanti alla TV a quest'ora. Però, siccome possono prendersela la questione di principio, potrebbero far cadere ugualmente la connessione. Quindi noi che facciamo? Qui facciamo, ci troviamo una scusa. Leggiamo 3 notizie brevi, ora uno dietro l'altra, mandiamo un brano lungo così ci permette di arrivare fino alle 18.10 e poi dopo si legge la prossima notizia di controinformazione. Vediamo se funziona, vediamo se ci hanno ascoltato, ci fanno vedere ora al volo. Allora, la prima notizia, le prime due notizie riguardano, anzi diamo prima quella in italiano così dopo andiamo direttamente in Cile. Allora, la prima notizia non è una notizia, è un'iniziativa che si terrà a Genova al posto occupato al Mainasso venerdì 27 giugno, quindi la settimana prossima alle ore 19. Iniziativa molto interessante che prevede un incontro con Amadeu Casillas, ex prigioniero delle carceri spagnolo e militante anarchico. Amadeu Casillas ha trascorso più di 25 anni in carcere per aver rapinato tra gli anni 70 e 80 decine di banche allo scopo di finanziare le lotte operaie e rivoluzionarie. In carcere ha partecipato a diverse mobilitazioni dei detenuti e negli ultimi anni ha condotto diversi scioperi della fame per reclamare la libertà che gli era negata, nonostante avesse già scontato il numero massimo di anni di carcere previsti dalla legge. Amadeu parlerà del libro autobiografico che ha appena pubblicato, Un riflesso della società, cronache delle carceri della democrazia, libro che per ora è solo in spagnolo e si aspetta che qualcuno lo traduca in italiano. Qui si traducono solo le notizie, non si traducono i libri, lo dico tanto per mettere le mani in avanti. Venerdì 27 giugno al Mainasso di Genova, poi dopo ci sarà un buffet a sostegno di Daniele e Francesco arrestati a Pisa e Livorno per un residuo di pena da scontare in relazione ad una rapina avvenuta a Lucca nel giugno del 2007. Ora, come ho detto, si va in Cile perché fuori al pedagogico, in solidarietà con i compagni detenuti, sono avvenuti degli scontri durante la mattinata del 13 giugno. Verso le ore 8 del mattino un gruppo di incappucciati ha deciso di tagliare dei pneumatici in strada ed hanno cercato lo scontro con le forze dell'ordine all'esterno del pedagogico al UMCE. Col striscione e volantini sui prigionieri politici in guerra e in particolare ai compagni del caso Security, lo stesso giorno in cui c'è stata la sentenza contro di loro. Per chi vuole, poi sul post che trovate su Radiazione ci sono anche le immagini sia del volantino sia degli scontri, insomma cioè, ci sono un po' di immagini. Allora, l'altra notizia che arriva dal Cile invece riguarda i due compagni Alfonso ed Hermes, i due compagni che sono stati arrestati in seguito alla rapina al Banco Estado in Pudahuel, purtroppo famosa rapina dove un pezzo di merda, un miserabile servo dello Stato ha praticamente crivellato di colpi il compagno Sebastian Novesluy Seguel. Allora, gli anarchici Alfonso e Hermes sono stati in custodia cautelare nella sezione di massima sicurezza per la rapina a Banco del Stato l'11 dicembre 2013, durante la quale un infame vigilante scrivello di colpo il compagno Sebastian Novesluy. Dopo 6 mesi di carcere, il 13 giugno 2014, entrambi hanno accettato il rito abbreviato e sono stati condannati per tentata rapina con intimidazione e porto illegale d'armi, ricevendo una condanna a 5 anni di libertà vigilata, uscendo dal carcere lo stesso giorno. Libertà per tutti i prigionieri rivoluzionari e anarchici. Io non aggiungo, per tutti e tutte le i prigionieri, prigioniere, rivoluzionari, rivoluzionari, si fa un plurale, l'ho detto 3000 volte. Quindi ci fa piacere della notizia della liberazione di Alfonso ed Hermes, avvenuta pure troppo tardi per il sottoscritto, però questo è un attimo, forse c'è anche una parte, oltre al rito abbreviato dei compagni, c'è una missione di colpa da parte dello Stato cileno per quanto riguarda l'omicidio di Stato di Sebastian Oversluy Segel. Allora, questa era per le tre notizie brevi di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano. Che scegliamo? Allora, 64 Revolt, il brano è Next Generation, e poi dopo si torna qui e si parlerà di psichiatria, non si parlerà delle riflessioni di radiazione, si parlerà prima di psichiatria e poi chiuderemo in bellezza, chiuderemo con lo scazzo le riflessioni di radiazione. 64 Revolt, Next Generation. 64 Revolt Next Generation. E allora passiamo alla prossima. Non è una notizia nuova di controinformazione, a parte qualcosa. Innanzitutto volevo specificare una cosa. Qualche giorno fa sul sito di Radiazione è apparso un articolo dove parlava di un ritrovamento di telecamere davanti a un posto occupato a Genova. Allora, la notizia la diamo uguale, non viene cancellata dal sito, anche perché abbiamo saputo da qualche compagno di Genova che il posto dove sono state messe le microspie è posto frequentato dai famosi puntini sulle i. Quindi non so cosa andavano cercando, infatti il compagno che mi diceva, cioè, ma che cercano da loro? Oramai hanno messo le mani in avanti, sono dissociati e vogliono vedere quanti ce ne sono che si dissociano, boh, non lo so. E quindi vabbè, non la diamo comunque, la lasciamo ancora comunque sullo sito di Radiazione, perché comunque è bene che si mostrano anche questi oggettini che servono al controllo, che ci controllano quotidianamente. Ora è capitato a loro, molto spesso capita ad altri compagni ovviamente. Quindi ora, rimanendo a Genova, prendiamo un testo dal Mainasso che è: sgomberi, sfratti e detenzioni, le cangianti armi della repressione. Ieri mattina a Genova, consolidando una consuetudine di questi tempi, carabinieri, vigili urbani e ARTE si sono presentati alla porta di una delle tante occupazioni abitative del centro storico. Dopo fugaci controlli, l'arrivo di alcuni solidali e qualche blanda minaccia se ne sono andati senza produrre molti altri fastidi, oltre all'ennesima testimonianza della loro stessa esistenza. Qualche settimana fa, invece, sempre nel centro storico, durante un'operazione sgombero di un appartamento occupato, i tutori dell'ordine e della proprietà hanno deciso di farsi accompagnare da un'ambulanza, dal conseguente monito di TSO nei confronti della persona che, al momento che si trovava dentro, nel caso avesse resistito, dato in escandescenze o semplicemente protestato più vivacemente del democraticamente consentito. Su sgomberi e sfratti, nello specifico, l'attuale controinformazione è già ricca di ampi ed eterogenei contributi. Proponiamo quindi un testo scritto qualche anno fa in seguito ad un episodio di fuga da un reparto psichiatrico cittadino. Non perdiamo occasione per rinnovare la nostra solidarietà a chi quotidianamente combatte contro questo sistema infame, in particolare agli arrestati e agli indagati a Torino per la lotta contro gli sfratti. Allora, il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, è una forma di coercizione arbitraria che viene decisa da un personale medico e siglata dal sindaco della città. A valore legale, una persona che subisce un TSO deve rimanere, se questo non viene revocato prima, ricoverata 7 giorni, rinnovabili fino a 30, nel reparto psichiatrico dell'ospedale più vicino al luogo in cui viene prelevata. Terminati i giorni previsti dalla legge, la persona viene rilasciata o la permanenza in ospedale viene prolungata, trasformandosi in TSV, trattamento sanitario volontario. Come dice il nome stesso, questo tipo di intervento dovrebbe essere vincolato alla volontà del paziente. Di fatto, sebbene da un punto di vista legislativo lascia aperte più spiragli dai quali poterne uscire, si tratta ancora una volta di una decisione arbitraria del primario di reparto, che si riserva di trattenere la persona fino a tempo indeterminato in attesa di verificare gli effetti della terapia. Inutile dire che durante tutto questo periodo di detenzione si è costretta a ingoiare farmaci di ogni tipo senza essere informati su quello che sono. Ci si deve attenere ad orari ripetitivi, nessuno se non gli altri reclusi parla con te su un livello paritario. Nel migliore dei casi si è costretti a sostenere colloqui con persone con le quali non si desidera avere alcun tipo di rapporto, ogni forma singolare di manifestarsi o ogni tipo di opposizione vengono punite. Chiunque, terminata questa esperienza, quando ritrova la luce del sole, si ritrova devastato, privo di forze fisiche e forze psicologiche, prosciugato di tutto, senza neanche probabilmente ricordarsi perché è finito lì dentro. Il rilascio viene garantito solo previo consenso a proseguire la terapia farmacologica presso gli ambulatori e minaccia di TSO se questo non verrà rispettato. Questo basta per dire che senza accortezza è molto facile, una volta entrati nelle briglie della psichiatria, non uscirne mai più e pertanto avere la propria vita rovinata. Perché mai si dovrebbe subire un TSO? Volutamente abbiamo voluto tralasciare questa parte perché non intendiamo cadere, come accade per la medicina mentale, nella categorizzazione e architettura dei comportamenti umani. Ci limitiamo a dire che per propria esplicita dottrina la psichiatria interviene laddove i comportamenti e i modi di esprimersi non sono allineabili o assorbibili da quelli considerati normali, insomma quelli dominanti. La psichiatria, da sempre, è uno strumento di controllo sociale a servizio del regime democratico, fascista, comunista che sia. Si può dire che se il carcere reprima la dissidenza quando si concretizza sotto forma di pensiero ed azione, la psichiatria reprime la dissidenza dall'emozione e del loro diverso manifestarsi. Ma se da un lato si potesse senza grande possibilità di sbagliarsi dire che viviamo in un vero e proprio carcere a cielo aperto, che tutti noi siamo dei reclusi, non solo chi sta dietro le sbarre nella società tecnocratica in cui viviamo, questo aspetto quando si parla di psichiatria va ancora oltre e molto di più facilmente rivelabile. Il controllo psichiatrico sulle menti dei cittadini non si esaurisce con le strutture mediche, gli ambulatori e i dottori. Inizia e continua molto prima e dopo un TSO o di qualsiasi altro tipo di ricovero. Banalmente, psicofarmaci e sostanze psicotrope, legali o meno che siano, sono accessibili a tutti anche senza aver mai parlato con un dottore. L'utilizzo di psicofarmaci è alle stelle ed è volontario e ricercato, sebbene indotto. Ecco, rispetto al carcere che si limita a mostrare la sua spada di Damocle come deterrente per le proprie azioni, la psichiatria ci insegna ad autocontrollarci e sottoporre noi stessi ad un controllo autoindirizzato e preventivo, andando a colpire laddove tutto può nascere, le proprie emozioni. Quello che è accettato da tutti è oramai abbastanza comune da non fare orrore, è che noi ricerchiamo attraverso le sostanze, le innovazioni tecnologiche, tutto ciò che ci allontani dalle nostre reali necessità, l'annullamento delle nostre emozioni quando esse sono troppo forti o viceversa, l'amplificazione delle stesse quando ci rendiamo conto di esserci talmente appiattiti da non provare quasi più nulla. Si tratta del miglior modo per educarsi alla sottomissione ad una palestra in cui ci alleniamo tutti con ottimi risultati, prima ancora che le strutture psichiatriche si mettano in moto per incidere direttamente sulle nostre vite. Accade però che, come il bisogno di mangiare quando si ha fame, il bisogno di esprimersi quando si è isolati, soffocati nel proprio io, diventano non più rimediabili. Ed è lì, a seconda dei casi, intervengono i manganelli della polizia o le iniezioni degli psichiatri. Ma la psichiatria è più subdola ed efficace perché agisce su quello che più spaventa l'essere umano, la sofferenza. Ancora una volta, senza accortezza, la psichiatria allarga i margini di vittoria sull'individuo. Quando esso non è più riportabile nei ranghi del pensiero unico della nostra società, il suo scopo è annientarlo. E da qualunque angolo si veda, sia che la terapia funzioni o meno, l'annientamento viene raggiunto. Se il paziente non è incline a sottoporsi a questi trattamenti, viene distrutto a colpo di iniezioni, pastiglie e ricoveri, quando non camicie di forza e eventualmente botte. Se invece il paziente accetta di seguire il leader proposto e imposto, quello che diventa è un bravo cittadino che si cura e si dimentica di perché si è tagliato i polsi, di perché ha rotto un vetro a testate, ha picchiato un infermiere, è scappato di casa da ragazzino o semplicemente ha gridato nel cuore della notte Insomma, si dimentica di chi è nei suoi più intimi aspetti e nell'apice delle sue emozioni. In ogni caso la psichiatria ha vinto. Avremo un fantasma o un altro individuo pronto a produrre e consumare senza dar fastidio. Come tutti i servi e le strutture del potere, la psichiatria si combatte lottando per l'abbattimento totale del sistema di dominio che essa non può fare a meno. Non c'è possibilità né spazio per renderla più umana, riformarla. Ma più ancora che il resto, la psichiatria si combatte creando quelle situazioni di lotta quotidiana, di condivisione umana, di relazione, al di là dei costrutti sociali che permettono a ciascuno di noi di incalanare e rilasciare senza remore il nostro dolore, la nostra rabbia, la nostra gioia e la nostra euforia, il nostro odio e il nostro amore. E se quell'uomo grida nel cuore della notte, aiutiamo le sue urla a raggiungere tutta la città, che svegliano i ben pensanti e non rimbalzino nascoste contro i muri della sua stanza. E questo era il testo di qualche tempo fa che i compagni del Mainasso ci hanno riproposto, parlando di quello che sta accadendo durante gli sgomberi a Genova, ma quello che accade un po' dappertutto, perché oramai durante gli sgomberi c'è sempre l'autoambulanza. L'autoambulanza è sempre presente, quindi l'autoambulanza non è perché nello scontro qualcuno si possa fare male, assolutamente. L'autoambulanza c'è perché a bordo c'è il TSO, quindi cosa che non è limitata alla realtà, alla vita libera, ma anche alla situazione in carcere, perché mi ricordo, almeno nel carcere di Pisa, questo carrello che passa ogni pomeriggio con gli psicofarmaci e il tipo che ti bussa alla blindato della cella e ti chiede se vuoi prendere uno psicofarmaco, così, senza prescrizione, cioè una droga, cioè usalo proprio come droga, per abbatterti, per... Passano normalmente tutti i giorni, almeno nel carcere di Pisa, Don Bosco, al San Bosco, ora è San Giovanni Bosco, quindi non è più un don, ma San Giovanni Bosco, passa il carrello con gli psicofarmaci tutti i giorni, verso le 4-5, se ricordo bene, era quello l'orario. Ma da quello che ho capito passa anche in altri carceri, tipo a Napoli, a Poggioreale, qualcun altro di sicuro, quindi, ma penso in tutte le carceri passa a sto carrello maledetto con gli psicofarmaci, che tu non li prendi e li prende qualcun altro a posto tuo. E molto spesso qualche detenuto ti chiede pure di prenderne qualcuno in più al posto suo. Io non l'ho mai fatto, non li prendo per me, non li prendo per altri. Quindi, allora, questo era per quanto riguarda il testo sulla psichiatria. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Zardonic, il brano è Death Machine, ovviamente, e poi dopo si torna qua e iniziamo a litigare con le nuove riflessioni di radiazione. We'll be right back. E questi erano Zardoni con il brano Death Machine. Allora, abbiamo detto, ce ne siamo conservati per l'ultimo, le riflessioni di radiazione, le mie riflessioni, perché come dicevo qualche tempo fa, qualcosa sta cambiando, qualcosa cambierà, nel senso che molte cose penso di non pubblicarle più, come le giornate di azioni indette su internet, ma non per non portare solidarietà ai compagni in carcere, ma perché sembra che stia diventando tutto troppo una pagliacciata. Oramai chiunque si sveglia la mattina, c'è il naso, la mosca al naso, e praticamente indice una giornata, una settimana di azioni in solidarietà. Così facendo mette a rischio tutta una determinata serie di compagni molto più giovani che, presi dall'istinto, seguono anche queste giornate di solidarietà, e può capitare anche qualche arresto. Può capitare qualche arresto, perché se indici una settimana di azioni a cavallo tipo da oggi al venerdì prossimo, ovviamente siccome tutto viene detto tramite internet, chi ci controlla sa benissimo che in quei giorni gli obiettivi più sensibili vengono controllati, a differenza degli altri giorni dove gli obiettivi non vengono controllati così assiduamente. Quindi vabbè, le giornate di solidarietà indette, quelle indette su internet, perlomeno su radiazione, non verranno più pubblicate. Allora, leggiamo, iniziamo a leggere una parte di queste mie riflessioni, che boh, non lo so se faranno incazzare qualcuno, ma comunque qualcosa c'è da dire. Non si può far finta di non sapere, di essere ciechi o fare come le tre scimmiette, che si benda gli occhi, le orecchie e si tappa la bocca. Ora, allora, in uno degli ultimi scritti a firma della radiazione avevo detto che sarebbe bello conoscere le riflessioni di un sito o di un blog. Ovviamente il discorso è riferito solamente a chi fa dei veri e propri copia e incolla, e molto spesso non leggendo nemmeno cosa sta incollando. L'ho detto già 3000 volte, tramite la controinformazione via web, negli ultimi anni specialmente, si è riusciti a tradurre un'infinità di testi dalle e nelle varie lingue, che molto probabilmente solo 15 anni fa sarebbero rimasti sconosciuti. Questa è una delle pochissime cose buone che sono state prodotte da un certo tipo di controinformazione. L'altra è la costruzione di rapporti reali e non virtuali tra le singole individualità di paesi diversi e lontani che portano avanti tali progetti. Per il resto non si è fatto nulla se non alimentare le vocine dei finti contestatori di un certo tipo di propaganda che sputano nel piatto dove mangiano. Allora ecco perché dico che sarebbe già una cosa buona che chi porta avanti tali progetti di controinformazione inizi a spendersi almeno in qualche riflessione. Nelle stesse pagine di uno stesso sito o blog anarchico si legge dall'attacco esplosivo alla richiesta di amnistie alle riforme carcerarie, un continuo far confusione dove ce n'è già abbastanza. Ovviamente quando dico che serve che i siti e i blog facciano una... tirano fuori delle riflessioni, non mi riferisco a siti o blog che comunque di per sé già si muovono con la pubblicazione di un cartaceo e comunque la dicono la loro. Io faccio un esempio, Croce Nera Anarchica in Italia, ma come qualsiasi altra croce nera nel mondo che Almeno in Italia gli articoli sono scritti dai, dagli stessi compagni che portano avanti tale progetto. Poi ci saranno pure in futuro sicuramente degli scritti dei compagni detenuti, però ora è avvenuto così. Quindi comunque un'idea di quello che c'è dietro al sito uno la conosce. Non si conosce invece che idee ci sono dietro i siti, come dicevo ora, che pubblicano dall'attacco esplosivo alla richiesta di amnistia, alla riforma carceraria, alla rivendicazione per Snowden. Allora sarebbe bello capire, nelle molteplici contraddizioni e confusioni che vengono create, cosa c'è nella testa di chi le crea. Cosa ne pensa di un attacco esplosivo? Cosa ne pensa delle amnistie e delle riforme carcerarie? Cosa ne pensa delle rivendicazioni in solidarietà con uno sbirro? Cosa ne pensa di tutto quello che pubblica sulle proprie pagine web? Celarsi dietro uno schermo è un'altra delle critiche che i soliti falsi contestatori muovono nei confronti di tanti di noi. Non che dobbiamo dare ascolto alle proprie alle loro paranoie del cazzo, ma un fondo di verità c'è in questa cosa. Qualcuno potrebbe dirmi: ma tu firmi a nome di Radiazione, sei anche tu un anonimo dietro uno schermo. Vi evito di fare questa riflessione perché, come dice lo stesso nome, Radio Azione, questo è il sito di una radio dove il sottoscritto non ci mette solo la firma ma anche la voce e la faccia nelle iniziative che ritengo interessanti. Amo le mie contraddizioni, ho anche la TV, il telefono cellulare, l'impianto hi-fi, il frigorifero e la lavatrice. E allora? Devo dar conto a qualcuno? Lavoro, pensioni, casi di proprietà, auto di proprietà, autorità tra i compagni, sessismo tra i compagni, l'uso del denaro e tantissime altre cose ancora. Ed il mio computer e il mio sito sarebbero il problema? E allora mi sa che più che la controinformazione via web sia molto più virtuale l'anarchismo di qualcuno. È inutile farsi delle sighe mentali perché servono solo a bloccare il passo in avanti. L'attacco con i fatti al sistema tecnologico è un discorso, le paranoie sono altro. Per non parlare di un essere selvaggi che non ci appartiene più. Esso fa parte della vita passata dei nostri avi e credere solo per questo motivo che ce lo portiamo nei nostri geni vuol dire credere nella scienza. La dimostrazione è data da chi da anni sproloquia e crea proselitismo sul primitivismo attraverso libri e documenti, mentre il resto dei giorni lo spende prendendo aerei e gridando e girando con una telecamera in mano. Vogliamo essere selvaggi? Vogliamo il primitivismo? E allora bisogna distruggerlo tutto. Bisogna distruggerlo nel quotidiano e non aspettando le masse e i tempi giusti. Per vivere nel primitivismo bisogna distruggere quotidianamente il putrido esistente, mettendo in gioco la nostra libertà e la nostra vita. Siete sicuri di caricarvi sulle spalle tutto questo? Non credo proprio che sia una cosa per tutti. C'è prima da sconfiggere la paura di perdere le cose che miseramente pensiamo siano di nostra proprietà. Chi si è illuso di farlo costruendo in passato le cosiddette comuni ha solo peggiorato la sua vita. Si è creato la sua propria isola felice che non altro non è che il proprio carcere. Non ci prendiamo in giro, qui si parla tanto e non si muove un cazzo, quindi i conti non tornano. We'll be right back. Neurotech, il brano era Non-Existent. Allora, dicevamo, qui si parla tanto e non si muove un cazzo, quindi i conti non tornano. Ed allora cosa si fa, visto che le menti sognano e le braccia si imputridiscono? Si inventa una New Anarchy. Non siamo riusciti a liberare nemmeno il nostro cervello dai tanti paletti e parliamo di una nuova anarchia. Ora sia ben chiaro, faccio una provocazione. Parlare di anarchismo vuol dire parlare delle idee di un partito politico? Allora io mi ricordo tipo la scissione del Partito Comunista in Italia, che per modo di vedere differenti si è diviso il Partito Democratico della Sinistra e Rifondazione Comunista. Questo è un esempio italiano, anche se l'idea di questa New Anarchy non arriva dal bel paese di merda. È vero, non solo in Italia. Ci sono molti modi di interpretare l'anarchismo, ma è pur vero che alla fine l'interpretazione si riduce sempre in tre posizioni. C'è chi si spende rischiando la vita e la sua misera libertà pur di raggiungere la liberazione totale. C'è chi decide di spendere la sua vita facendone solo propaganda e molto spesso confusa, aspettando un gregge che arriverà, che non arriverà. Infine c'è chi a parole distruggerebbe il mondo e poi al minimo scoppiettio mette le mani avanti per non cadere. L'anarchismo è uno, unico, e l'anarchia di conseguenza ha un solo significato. Di conseguenza c'è chi dice che l'anarchismo è morto, o delira, o si sta creando un personaggio, o sta cercando di inventare una forma nuova di ideologia. Per cercare di arrivare a vivere in una società anarchica c'è bisogno della propaganda, sì, ma soprattutto del fatto. La propaganda senza il fatto è come la benda che avvolge il corpo vuoto di una mummia. La mummia, senza le bende che la proteggono, si consumerebbe ancora più velocemente. Le parole hanno sì una loro importanza, ma nemmeno dobbiamo pensare di fare gli apostoli per tutta la vita. Non abbiamo nessuna fede da portare in giro per il mondo. Non guardo al futuro, perché posso campare altri 50 anni e posso morire anche senza aver terminato questa diretta. Non mi fa paura questo, ma mi fa girare le palle pensare di passare il resto della mia vita a far conoscere l'anarchismo al gregge. Non sono un prete e non voglio portare la parola di nessuno tra le pecorelle smarrite. Sono troppo egoista e se c'è da godersi qualche momento me lo voglio vivere io in primis. Non faccio il cameriere che prepara la tavola a chi si verrà a sedere per mangiare comodamente. Se appareggio la tavola mi ci siedo io per primo, e se a qualcuno piace la minestra che mangio e decide di sedersi a tavola con me, sarò felice. Ma mangeremo insieme e non un prima dell'altro. E se non troverò nessuno con cui mi farà felice mangiare insieme, mangerò da solo, senza aspettare che qualcuno si decida a se mangiare o meno la mia stessa minestra. Morirei di fame ad aspettare le decisioni altrui. Prima dicevo che l'anarchismo è uno e unico, anche se esso viene interpretato diversamente per culture diverse nelle varie parti del mondo. Il web in questo ha fatto macelli, perché ha creato un mix di ideologie che ha generato un nuovo linguaggio, spesso e volentieri anche in questo caso un continuo copia e incolla. Giornate di azioni e solidarietà indette su internet, o usanze come le commemorazioni annuali dei compagni morti, che con tutto il rispetto, senza offendere nessuno, servono solo a riprodurre il culto della carogna. Ma anche le azioni che mancano di nuove analisi nei testi di rivendicazione e che stanno diventando una soppopera a puntate. Tanto rispetto per chi agisce, ma a numerare le azioni già ci pensa la magistratura negli atti giudiziari, quindi non lo facciamo anche noi. E specialmente finiamola di riprodurre tutte le stesse frasi copiate e incollate. Un'azione, se non ha nulla da dire di nuovo, può anche rimanere muta, perché è importante il sabotaggio in primis, ma allo stesso momento secondo me deve essere sempre accompagnato da una firma, ripetibile o meno, a differenza di chi pensa che sia meglio l'anonimato. Chi vuole l'anonimato è solamente perché ha paura che venga infilato in qualche inchiesta, ma è difficile anche per la magistratura fare una montatura su chi resta le giornate intere davanti al computer o a scrivere sui fogli. Ma che la firma ripetibile non diventi una moda e che segua l'impronta che gli è stata data alla sua nascita, Questo lo dico perché comunque ci dovrebbe essere una forma di rispetto per chi l'ha partorita, cosa purtroppo che ho dovuto constatare in diversi scritti in cui si rivendica l'appartenenza ad un determinato tipo di informalità, ma distorcendone con i propri pensieri tutto o quasi tutto quello che si era, su cui si era formato quel tipo di informalità. Se vi rivendicassi l'appartenenza alla Federazione Anarchica Informale, paragonandola a organizzazioni terroristiche oppure marxiste-leniniste, mi lascia perplesso. Sono io che non ci ho capito niente leggendo fin dal primo documento firmato FAI informale, o sono gli altri che non ci hanno capito un cazzo? Chi pensa di appartenere ad un'organizzazione terroristica, secondo me non ha nulla a che vedere con l'anarchismo, perché un gruppo di compagni che passa all'azione lo fa per distruggere chi ci distrugge nel quotidiano e non terrorizzare chiunque. Posso capire che da qui all'Indonesia ci separano migliaia di chilometri, ma il termine terrorismo ha lo stesso significato dovunque. Se proprio dobbiamo pensare cosa sia una New Anarchy, secondo me sarebbe il caso di prendere in considerazione quella nata attraverso il web. Non mi permetterò mai di dire che l'anarchismo in Italia sia meglio di qualche altro paese nel mondo, ma con l'anarchismo come quello statunitense o dell'Est, per esempio, non abbiamo nulla in comune se non una accerchiata. Non viviamo gli stessi disagi, non li abbiamo mai vissuti e per questo semplicemente non possiamo vederla allo stesso modo. Ho citato questi due paesi perché l'anarchismo in quei luoghi è molto più simile all'autonomia o altre forme di comunismo che sono presenti in Italia. In alcune nazioni del nord o dell'est Europa, in particolare quelle scandinave e quelle della Germania, il discorso non cambia. Alcuni anarchici tedeschi che scrivono come gli autonomi tedeschi, anarchici bosniaci che difendono dagli attacchi dei più radicali i palazzi governativi perché proprietà del popolo, gli anarchici russi ed ucraini che fanno alleanze con gruppi di patriottici di ogni colore, gli americani che fanno gli Oscar, ma anche alcuni anarchici italiani che manifestano con politici e preti. Insomma, questa è, senza paragonarla a chi ne sente l'appartenenza attraverso l'attacco, una New Anarchy, molto new e poi per niente anarchica. Radiazione, giugno 2014. E con queste riflessioni su cui non devo più aggiungere nulla, penso di aver detto tutto, poi le cose si possono approfondire, non mancheranno altre riflessioni, perché comunque il sito va comunque, come dicevo all'inizio, sarebbe bello che qualcuno ogni tanto scrive le sue proprie riflessioni sul sito, perché puoi pubblicare pure tutte le azioni del mondo, puoi dare un'impronta, però se non mi scrivi tu come la pensi, io faccio fatica a capirlo. Appuntamento a lunedì prossimo con la diretta d'azione in cui ci sarà Marcello insieme a me, leggeremo I Sabotatori di Edward Abbey, leggeremo all'inizio Nazero 13 il mio racconto e poi controinformazione, letture, lunedì ore 17. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione, punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. www.radioattivazione.org.